ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin se ne andò prima che il sipario calasse sull'ultimo atto, perché voleva vedere Ruth mentre usciva. C'erano sempre molti uomini fermi sul marciapiede e gli sarebbe bastato abbassarsi il cappello sugli occhi e nascondersi dietro le spalle di qualcuno per non essere visto. Emerse dal teatro tra i primi, ma aveva a malapena preso posizione sul bordo del marciapiede quando comparvero anche le due ragazze. Sapeva che lo stavano cercando e in quel momento Martin avrebbe maledetto quella cosa in lui che attirava le donne. Quando attraversarono con indifferenza il marciapiede, dirette dalla sua parte, capì che lo avevano scoperto. Le ragazze rallentarono e lo raggiunsero quando ormai erano nel mezzo della folla. Una delle due, dopo averlo urtato, fece finta di notarlo per la prima volta. Era una ragazza bruna e slanciata, con degli occhi neri, insolenti, che però gli sorridevano. Anche lui allora le sorrise. «Ciao!» le disse. Fu una reazione automatica. Fino ad allora Martin aveva pronunciato quella parola molte volte, al primo incontro, in circostanze simili. Non avrebbe potuto non farlo, reagire in un altro modo, perché lui era per natura capace di comprendere e ricco di tenerezza. La ragazza dagli occhi neri, gratificata, gli rivolse un sorriso di benvenuto e fece per fermarsi. La sua compagna, che le dava il braccio, ridacchiò e mostrò a sua volta di volersi fermare. Martin rifletté rapidamente. Sarebbe stato un disastro se Ruth fosse uscita e l'avesse visto parlare con le due ragazze. Istintivamente, come se fosse una cosa naturale, si avvicinò alla ragazza dagli occhi scuri e si mise a camminare al suo fianco. Non era impacciato nemmeno nel parlare. Si trovava sul suo terreno e sapeva padroneggiare perfettamente la recita. Ne conosceva il gergo e tutte le battute, conosceva tutte le mosse preliminari di quei rapidi incontri. Mentre la corrente della folla continuava ad avanzare lungo la via principale, lui, giunto all'altezza di un angolo, fece per entrare in una strada laterale, ma la ragazza dagli occhi neri, che lo aveva seguito trascinandosi dietro l'amica, gli prese un braccio e gli gridò: «Calma, Bill! Cos'è tutta questa fretta? Non riuscirai a liberarti di noi così presto?» Martin si fermò ridendo e si girò. Ora era di fronte a loro e oltre le loro spalle vedeva la folla che avanzava sotto la luce dei lampioni. Si trovavano in un angolo poco illuminato da dove lui avrebbe potuto vederla passare senza essere visto. Ruth, per tornare a casa, doveva passare per quella strada. «Com'è che si chiama la tua amica?» chiese la ragazza che ridacchiava, indicando quella dagli occhi scuri. «Chiedilo a lei», gli rispose balbettando per il ridere. «Beh, allora, come ti chiami, eh?» chiese rivolgendosi direttamente alla ragazza in questione. «Non mi hai mica ancora detto come ti chiami tu», ribatté lei. «Non me l'hai mica chiesto», lui le sorrise. «E comunque l'hai indovinato al primo colpo. Mi chiamo proprio Bill». «No, avanti, piantala», lo guardò negli occhi. Quelli di lei erano così invitanti, profondi, appassionati. «Di la verità, eh? Come ti chiami?» La ragazza lo guardò di nuovo. Secoli di femminilità, fin dalla nascita del sesso, parlavano con eloquenza nei suoi occhi. Ma lui la valutò senza emozione. Sapeva che, anche se ora era così sfacciata, avrebbe iniziato a ritirarsi, maliziosa e timida, non appena lui si fosse fatto avanti, pronta a riprendere in mano il gioco se lui si fosse mostrato indeciso. Ma anche Martin era un essere umano, si sentiva attratto da lei e il suo io non poteva evitare di essere adulato da quella sua dolcezza. Ah, lui sapeva tutto e la conosceva bene, dalla A alla Z. Era buona, secondo i parametri che misuravano la bontà nella loro classe. Lavorava duramente per una misera paga. disprezzando l'idea di vendere se stessa in cambio di una vita più facile. Era sempre nervosamente alla ricerca di un qualche pizzico di felicità nel deserto della vita. Il suo futuro era solo una scommessa tra lo squallore di fatiche senza fine e un abisso oscuro ancora più orribile, un cammino più breve, anche se meglio pagato. Rispose scuotendo la testa. Davvero mi chiamo Pete o Bill? Non ho nessun altro nome. Non scherzi, gli chiese. Non si chiama per niente Bill, si intromise l'altra. E come fai a saperlo? Le domandò lui. Non mi hai mai visto prima d'ora. Non ho mica bisogno di sapere che menti, ribatté lei. Sul serio, Bill, com'è che ti chiami? Gli chiese la prima ragazza. Bill andrà bene, confessò lui. Lei gli prese un braccio e glielo agitò scherzosamente. Lo sapevo che menti, ma mi piaci lo stesso. Martin prese la mano che gli era offerta e sentì contro il palmo cicatrici e callosità familiari. «Quando è che hai lasciato la fabbrica di conserve?» le chiese. «E come fai a saperlo?» «E... ah, ma questo legge nel pensiero!» gridarono le due ragazze in coro. Mentre scambiava con loro queste stupidaggini, Martin vide levarsi davanti agli occhi della mente gli scaffali della biblioteca, pieni della sapienza dei secoli. E sorrise con amarezza all'incongruità di quella visione e si sentì assalire dai dubbi. Ma tra la visione interiore e i dubbi esteriori trovò il tempo di osservare la folla che si riversava fuori dal teatro. E allora la vide, lì sotto le luci, tra suo fratello e lo strano giovane con gli occhiali, e gli sembrò che il suo cuore si fermasse. Aveva aspettato a lungo questo momento. Ebbe soltanto il tempo di notare qualcosa di soffice, vaporoso, che nascondeva la sua testa da regina, le linee eleganti degli abiti che ne avvolgevano la figura, la grazia del portamento e della mano che sollevava la gonna. E poi Ruth era già svanita. Si ritrovò vicino le due ragazze della fabbrica di conserve, con i loro grossolani tentativi di essere eleganti, i loro patetici sforzi per essere pulite e in ordine, i tessuti dozzinali, i fiocchi dozzinali, gli anelli dozzinali alle dita. E sentì qualcuno tirargli un braccio e una voce che diceva: «Ehi, svegliati, Bill, ma che ti succede?» «Che stavi dicendo?» chiese lui. «Nulla», rispose la ragazza bruna, scrollando il capo. «Stavo solo dicendo...» «Che cosa?» «Beh, Stavo dicendo che sarebbe una buona idea se potevi scovare un cavaliere per lei, e indicò la sua compagna. E poi potremmo andare a spasso e prendere un gelato da qualche parte, o un caffè, o qualcos'altro. Un'improvvisa nausea spirituale assalì Martin. Il passaggio da Ruth alle due ragazze era stato troppo improvviso. Proprio a fianco degli occhi impudenti e spavaldi della ragazza di fronte a lui, aveva visto apparire gli occhi chiari e luminosi di Ruth, simili a quelli di un santo, che lo guardavano dalle insondabili profondità della purezza. In qualche modo sentì dentro di sé un sussulto di potenza. Lui era superiore a tutto questo. Per lui la vita significava molto di più di ciò che significava per queste due ragazze, preoccupate solo di trovare un gelato e un cavaliere. Ma allora si ricordò di avere sempre condotto una vita segreta nella sua mente. Aveva cercato di condividere con altri i suoi pensieri nascosti, ma non aveva mai trovato una donna o un uomo capace di comprenderlo. Spesso, quando aveva cercato di spiegarsi, era riuscito soltanto a confondere i suoi ascoltatori. «Io stesso», Martin concluse in quel momento, «devo essere superiore a loro, perché i miei pensieri sono sempre stati superiori ai loro». Sentì una forza muoversi in lui e strinse i pugni. Se la vita aveva per lui un significato più elevato, allora era giusto chiedere di più alla vita, ma non poteva certo chiederlo a una simile compagnia. Quegli arditi occhi neri non avevano nulla da offrire. Conosceva benissimo i pensieri che vi si annidavano, un gelato e qualcos'altro, ma quegli occhi di santa che gli erano passati davanti, essi gli offrivano i più alti premi che poteva desiderare e tante altre cose ancora che non riusciva neppure ad immaginare. Offrivano libri, dipinti, bellezza e dignità e l'intera raffinata eleganza di un'esistenza più nobile. Martin, al contrario, conosceva ogni processo del pensiero che si celava dietro questi occhi neri. Era come il meccanismo di un orologio, ne vedeva girare ogni ruota. Queste ragazze gli offrivano un misero piacere stretto come una bara, un piacere che annoiava presto e che portava alla tomba. Ma gli altri occhi, simili a quelli di un santo, gli offrivano il mistero, meraviglie inimmaginabili e la vita eterna. Martin aveva intravisto in quegli occhi l'anima di Ruth e poi vi aveva intravisto anche la propria. «C'è una sola cosa che non va in questo programma», disse forte. «Ho già un appuntamento». Gli occhi della ragazza fiammeggiarono di delusione. «Ah, certo, devi vegliare al capezzale di un amico malato», lo sbeffeggiò. «No, no, ho un vero e autentico appuntamento con...» ed esitò. «Con una ragazza». «Non è che vuoi liberarti di me?» lei gli chiese esplicitamente. Martin la guardò negli occhi e rispose. «Lo giuro, è vero. Ma potremmo vederci un altro giorno. Non mi hai detto come ti chiami e dove abiti?» «Lizzie», rispose lei, addolcendosi e premendogli la mano sul braccio e appoggiandosi a lui. «Lizzie Conley, e abito nella quinta, da Market Street». Martin parlò ancora per pochi minuti e poi augurò loro la buonanotte. Ma non andò subito a casa. Sotto l'albero dove era solito vegliare, guardò su verso una finestra e mormorò: «Il mio appuntamento era con te, Ruth, e l'ho mantenuto per te». Searching for a heart of gold. Un'intensa settimana di letture separava Martin dalla sera in cui aveva incontrato Ruth Morse per la prima volta. Ma non aveva ancora osato chiamarla. Di tanto in tanto riusciva a trovare il coraggio sufficiente per decidersi ad andare a farle visita, ma poi la sua sicurezza si incrinava sotto l'assalto dei dubbi. Martin non sapeva quale fossero le ore adatte per una visita. Non c'era nessuno che potesse dirglielo e aveva paura di commettere un errore irrimediabile. Ormai, liberatosi dalle vecchie compagnie e dalle vecchie abitudini, ma ancora senza nuovi amici, non aveva altro da fare che leggere. E le lunghe ore che passava a leggere avrebbero rovinato almeno 12 paia di occhi normali, ma lui aveva occhi forti, sostenuti da un corpo superbamente forte. La sua mente era incolta. Era un campo tenuto a maggese per tutta la vita, mai seminato con il pensiero astratto dei libri, che ora era pronto per essere coltivato. La sua mente non si era sfiancata nello studio e ora poteva addentare la conoscenza contenuta nei libri con denti affilati, decisi a non lasciare la presa. Alla fine di quella settimana, Martin si sentiva come se fossero passati dei secoli, tanto la sua vecchia vita e le sue vecchie convinzioni erano lontane. Ma era frustrato dalla mancanza di preparazione. Spesso cercava di leggere libri che richiedevano anni di studi preliminari. Un giorno ne leggeva uno che trattava teorie filosofiche ormai sorpassate, e il giorno dopo uno ultramoderno, con il risultato che la testa gli girava a causa del conflitto e delle contraddizioni tra le differenti idee. Gli accadeva lo stesso con gli economisti. In uno scaffale della biblioteca trovò Karl Marx, Ricardo, Adam Schmidt e Mill. Le astruse formule di uno non gli fornivano alcun indizio per capire che le idee di un altro erano obsolete. Martin era sconcertato, eppure voleva ancora imparare. In un solo giorno si era appassionato all'economia, alla produzione industriale e alla politica. Mentre attraversava il City Hall Park, aveva notato un gruppo di persone al centro del quale si trovava una mezza dozzina di uomini che con le facce arrossate discutevano liberamente ad alta voce. Unitosi al pubblico, Martin ascoltò una lingua nuova, aliena dalla bocca dei filosofi e del popolo. Uno era un vagabondo, un altro un agitatore laburista, un terzo uno studente di legge, mentre il resto del gruppo era formato da lavoratori dalla parola facile. Lì sentì parlare per la prima volta di socialismo, anarchia e tassa unitaria, imparando che esistevano opposte filosofie sociali. Ascoltava centinaia di termini tecnici mai sentiti prima perché appartenevano a campi del pensiero che le sue scarse letture non avevano nemmeno sfiorato. Non riusciva a seguire perfettamente le argomentazioni, ma solo a indovinare e intuire a grandi linee le idee racchiuse in quelle strane espressioni. Del gruppo facevano parte anche un cameriere dagli occhi neri che era un teosofo, un panettiere sindacalista agnostico e un uomo anziano che mise tutti in difficoltà sostenendo una strana filosofia secondo la quale ciò che è giusto. E un altro anziano che fece un interminabile discorso sul cosmo, l'atomo padre e l'atomo madre. Quando se ne andò, dopo molte ore, Martin Eden era completamente frastornato e corse in biblioteca per cercare le definizioni di almeno una dozzina di parole insolite. Tornò a casa portando sotto braccio 4 volumi. La dottrina segreta di Madame Blavatsky, Progresso e povertà, La quintessenza del socialismo e Guerre di religione e scienza. Per sua sfortuna iniziò con la dottrina segreta. Ogni riga pullulava di parole formate da molte sillabe che lui non capiva. Seduto sul letto si trovava il dizionario davanti, assai più spesso del libro. Vi cercava un tale numero di parole che quando le incontrava di nuovo ne aveva già dimenticato il significato e doveva così cercarle un'altra volta. Alla fine decise di scrivere le definizioni in un quaderno e, foglio dopo foglio, lo riempì completamente. Ma non riusciva ancora a capire. lesse fino alle 3 del mattino, con il cervello in subbuglio, senza riuscire ad afferrare nemmeno uno dei pensieri fondamentali di quel testo. Quando alzò gli occhi dal libro, gli sembrò che la stanza si sollevasse, sbandasse e beccheggiasse come una nave sul mare. Poi scagliò la dottrina segreta insieme a molte bestemmie attraverso la stanza, spense il gas e si mise a dormire. Martin non ebbe fortuna migliore con gli altri 3 libri. Il suo cervello non era né debole né limitato, avrebbe potuto comprendere quei pensieri se non fosse stato per la mancanza di allenamento e delle idee di base necessarie per pensare. E Martin capì che era proprio quello il suo problema. Per un po' meditò di leggere solo il dizionario fino a quando fosse riuscito a impadronirsi del significato di ogni parola. La poesia era il suo rifugio, e Martin ne lesse molta, amando soprattutto i poeti più semplici, i più comprensibili. Amava la bellezza, e nella poesia trovava la bellezza. La poesia, come la musica, lo commuoveva profondamente, e anche se non lo sapeva, allenava la sua mente per il lavoro più pesante che lo attendeva. Le pagine della mente di Martin erano bianche. Molto di ciò che leggeva e amava vi si imprimeva senza alcuno sforzo, strofa dopo strofa, e in breve tempo fu in grado di trarre grande piacere nel recitare a bassa o alta voce la musica e la bellezza delle parole stampate che aveva letto. Poi si imbatté in Miti classici e L'età della leggenda, uno vicino all'altro su uno scaffale della biblioteca. Fu un'illuminazione, una potente luce nel buio della sua ignoranza, e Martin lesse la poesia ancora più avidamente di prima. L'uomo dietro il bancone della biblioteca aveva visto Martin così spesso da diventare abbastanza cordiale. Lo accoglieva sempre con un sorriso e un cenno del capo. Fu a causa di ciò che Martin decise di compiere un'azione azzardata. Mentre l'uomo stava timbrando le schede di alcuni libri che Martin aveva portato al bancone per prenderli in prestito, gli disse: «Sa, c'è qualcosa che mi piacerebbe chiederle». L'impiegato gli sorrise e si fece attento. «Quando si viene presentati ad una signorina e lei vi chiede di tornare a trovarla, dopo quanti giorni si può farlo?» Martin sentì la camicia, bagnata di sudore per lo sforzo, appiccicarglisi alle spalle. «Beh, direi in qualsiasi momento», rispose l'uomo. «Sì, ma questa è una situazione diversa», obiettò Martin. «Lei... vede, la situazione è questa. Lei può non essere a casa, frequenta l'università». «Beh, in questo caso ripassi», disse l'uomo. «No, non mi sono spiegato», confessò Martin farfugliando, accettando di mettersi completamente nelle mani pietose dell'altro. «Io non sono un tipo raffinato, non ho mai fatto vita di società. Questa ragazza è tutto ciò che io non sono, e io non sono nulla di tutto ciò che è lei». «Non sta forse pensando che la prendo in giro, vero?» gli chiese bruscamente. No, per niente, gliel'assicuro», protestò l'altro. «La sua richiesta non rientra esattamente nell'ambito del settore saggistica, ma sarò felice di poterla aiutare». Martin lo guardò con ammirazione. «Non avrei più problemi se posso metterla giù così», disse. «Prego, cioè, volevo dire, se posso parlare così facilmente e giusto e tutto il resto». «Ah», disse l'altro con comprensione. «Qual è il momento migliore per fare una visita? Il pomeriggio? Non troppo vicino all'ora di pranzo? O la sera? O la domenica?» «Ecco la risposta», disse il bibliotecario, illuminandosi. «Le telefoni e lo scoprirà». «Lo farò», disse, prendendo i suoi libri per andarsene. Si girò e poi chiese: «Quando si parla ad una signorina, per esempio con la signorina Lizzie Smith, si dice signorina Lizzie oppure signorina Smith?» «Signorina Smith», affermò il bibliotecario con autorevolezza. «Dica sempre signorina Smith fino a quando non vi conoscerete meglio». E fu così che Martin Eden risolse il suo problema. «Venga quando vuole. Sarò a casa tutto il pomeriggio», rispose Ruth al telefono quando lui le chiese balbettando in quale momento potesse passare per portarle i libri avuti in prestito. Ruth stessa accolse Martin sulla porta, e i suoi occhi di donna notarono immediatamente che i pantaloni avevano la piega, che in lui era avvenuto un leggero ma indefinibile cambiamento in meglio. Fu colpita anche dalla faccia. La salute di Martin era quasi violenta e sembrava propagarsi verso di lei in onde di forza. Avvertiva di nuovo un forte desiderio di avvicinarglisi per essere riscaldata. Di nuovo si meravigliava per ciò che la sua presenza causava in lei. E lui, a sua volta, provava di nuovo quella sensazione di fluttuante felicità al contatto con la sua mano quando lei lo salutò. Ma lei riuscì a controllarsi, a differenza di Martin, che arrossì fino all'attaccatura dei capelli. Poi la seguì, incespicando con l'abituale goffaggine, mentre le sue spalle ondeggiavano e rollavano pericolosamente. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.